Chiudi gli occhi e dormi, dormi figlio mio. Libera i tuoi sogni nel cielo dell'oblio e come per magia voleranno via fin là dove si incontrano realtà e fantasia, dove ancora narra il vento di una terra senza tempo, di un antico re e di un impero che più non c'è. Era audace e forte, giovane e bello, di alte torri d'oro splendeva il suo castello. Tutto ciò che un re può volere, sai, lui l'aveva e tuttavia non sorrideva mai. C'era un territorio intero che mancava al suo impero ed era certo là che stava la sua felicità. Quella ed altre terre invase e conquistò, sempre un po' più in là lui si spinse, ma non riuscì mai a trovare la felicità. Come un fiore ha un tesoro dentro al cuore, ma non se ne accorgerà se argento ed oro sol bramerà. Non cercar te stesso nel miraggio del possesso, ogni cosa qui appartiene a Dio, appartiene a non agli uomini, figlio mio, non agli uomini, figlio mio. Quella notte poi sognai.